Sono le 19.02 e iniziamo la terza puntata di Cronache di Regime. Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle palle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico, più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Con le bianche al potere, trabocchini sotto scrivanie, tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali, vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi? Cronache di regime, cose che non vedi. Cose che non vedi, che non vedi, cospirazioni, cospirazioni, per il 2000, per il 2000, sarà scuola, sarà scuola, sarà scuola. Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Torniamo in diretta su Mala Radio Milano con Cronache di Regime. Rilanciamo subito, vi diciamo subito i contatti dove potete scriverci. Potete scriverci via email a cronachedi_regime@autistici.org. Potete scriverci in diretta via SMS o via Telegram al numero 351-5579-698. Potete anche scriverci, volendo, sulla pagina Facebook e Instagram Cronache di Regime con la K. Allora, oggi avremo una puntata abbastanza piena, parleremo della sentenza di Cassazione per i fatti del 15 ottobre del 2011, che doveva avvenire pochi giorni fa ma è stata rinviata. Parleremo anche della repressione a Genova, di sorveglianze speciali, dello sgombero dello sfascio occupato e della situazione che si era creata in università. Faremo la presentazione insieme ad una compagna del corteo di Busto Arsizio. Parleremo degli sgomberi che ci sono stati a Corvetto in queste ultime 2 settimane e poi faremo un'intervista ad un gruppo musicale, ID Sud Disorder, che presenteranno il loro nuovo album Senza Amor Non Vale Nulla. Iniziamo con un pezzo dei Serpenzeno, questa si chiama Kill the Rich or Die Trying, parte 2, e così introduciamo anche la prossima argomentazione, che appunto è il 15 ottobre. Ricordiamo Serpenzeno, gruppo rap di Compagni Romano. Sento il rumore si gira di scatto, a Roma di notte nel lino non fratto, tutti quei giorni che nulla di fatto, sei dedicato in fila compatto, hanno tratto un soffio d'eolo, scopre lo scarlatto come un graffio, crea lo spazio per l'impatto, scacco matto, passo felpato di gatto, 4 dietro, un 4x4, aspetto l'attimo, vanzi col battito all'istante adatto, il nemico ovunque dunque cercalo, Serpenzeno, calci sputi elettrico, non so verti letto lessico, mille miscele di rabbia d'amore, coltiva cattiva passione, ma pensa parole che l'azione non porterà il mio nome, dove suona un pianoforte a coda sulla barricata là. Folle già citata, ciò che avanzerà per miglia, ogni rima fa da straccio intorno al collo di bottiglia, traccio un'orbita di fuoco nella notte per miglia, figlia della collera, al fianco esattamente di chi so che poi non mollerà e confonderà l'oscurità. Ultima colonna in alto come il quattro shot, lo show del fuoco pari a scatto, shot al bando e freddi barbol, tu in piazza fai, noi in piazza farai, io perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come il quattro shot, lo show del fuoco pari a scatto, shot al bando e freddi barbol, in piazza fai, noi in piazza farai, io tanti sbirri morti da farrico il fioraio. Quando passa sto suono non passi più, compare, non serve che metti bandiera blu, mi tuffo uguale, appena ti alzi dalla sedia avvicinati al muro, pare che ti torna in culo la vita che mi hai fatto mancare. Stare soltanto dove non puoi sostare, oh, fatti i cazzi tuoi e non dirmi che non si puoi, allora eccolo, Serpenzeno sempre contro questo mondo infetto, pure fermo nel letto mi pego il pentatron, 5 malattie in una, dillo alla luna che non si cura di chi ulula e accumula sfortuna, destinazione l'inferno qui, generazione Chernobyl. Abbiate dubbi tutti se restate inermi, frutti senza fermi, quando mai? E guarda sempre il cielo quando vai, che è pieno di high force come le Nike. Qua dai fatti ti senti goffo, da grande Randy Crawford. Connetti il beat al mai quando non senti il polso. Ultima colonna in alto come guato sciato, show del fuoco vai a scatto, shot al bug e stupi barbol. Tu in piazza affari, noi piazza farraio, perché la dignità qua non era da un salario. Ultima colonna in alto come guato sciato, show del fuoco vai a scatto, shot al bug e stupi barbol. Tu in piazza affari, noi piazza farraio, tanti sbirri morti da farmi col fioraio. Ultima colonna squilla al fianco di chi insorge, norge di rivolte, porge l'altra guancia al bacio della morte. Morte chiusa serrature, chiavi, stelli, sbarre, schedature, barre, magnetiche, tornelli, questa è carne. Non mi scordo chi sta dentro il tuo attendismo come sottotitoline porno. Questo non è rap, è un morbo, colpo secchio all'occhio del gigante, è un secchio di sangue. Siamo bravi che se ne vanno in tandem, vai con la tua fast life dalle fai giù se l'estrigon, macchie nere come nelle acque in Messico. Fuori dal dibattito da reddito sull'attico, crepi nel traffico, testa sul cazzo. Passo tra le nubi spesse dei CS contro la PS, beat S.I.S. kill the rich la germesse. Ultima colonna in alto come quattro shuttle, show del fuoco vai a scatto, shot al banco e spritti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai, perché la dignità qua non me la da un salario. Ultima colonna in alto come quattro shuttle, show del fuoco vai a scatto, shot al banco e spritti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai, tanti sbirri morti da farmi col fioraio. Io busso e menzino come il serpente, ma da fa la vipera in seno. Allora, questi erano i Serpenseno e ora, come detto, ci andremo a fare una chiacchiera con un compagno che è imputato all'interno del processo per i fatti del 15 ottobre del 2011. Cos'è successo 10 anni e mezzo fa? Un po' di gente ha provato a riappropriarsi delle proprie vite, come si è potuto leggere anche in alcuni volantini manifesti dopo, anche nelle scritte il giorno dopo. Seguente quella giornata, la gente ha vissuto veramente, ci sono stati degli scontri. Ora ci spiegherà un po' meglio il contesto il compagno che andremo ad intervistare. E per quella giornata di lotta, però, lo Stato, diciamo, non ha dimenticato e arriva sempre, anche anni dopo, a chiedere il conto. Ci sono stati vari filoni e varie fasi processuali e settimana scorsa ci doveva essere la sentenza di Cassazione appunto per il terzo filone processuale del 15 ottobre, ma è stata rinviata la sentenza al 26 aprile. Ora proviamo comunque a farci una chiacchierata con uno dei compagni imputati appunto per questo filone processuale. Un attimo solo che proviamo a collegarci con lui. Pronto? Ciao, ci senti? Sì, sì, forte e chiaro. Ok, ciao, grazie, benvenuto a Cronache di Regime. Grazie, ciao a tutte e tutti, e ciao compagno. Allora, perfetto. Allora, per iniziare, un po' appunto volevamo cercare di inquadrare un po' quella giornata del 15 ottobre, quindi se vuoi darci uno sguardo generale di ciò che è successo 10 anni e mezzo fa, così più o meno proviamo a contestualizzare anche per le persone che ascoltano di cosa stiamo parlando nello specifico. Sì, allora il 15 ottobre 2011 si svolse una grande manifestazione a Roma, dove parteciparono diverse centinaia di migliaia di manifestanti. La manifestazione ebbe seguito al movimento degli Indignados in Spagna, che ancor prima loro hanno avuto seguito da il movimento Rise Up in America, e ancora prima ci fu quell'anno la primavera araba. Quindi fu un anno caratterizzato da una rivolta globale sia nel mondo arabo che nel mondo occidentale. E questa manifestazione, la gente che scese in piazza lo fece rivendicando i propri diritti costituzionali, insomma, anche perché venivamo dal governo Berlusconi che cadde, ricordiamolo, una settimana prima cadde il governo Berlusconi e poi subentrò quello Monti, quindi era un governo di austerity, dove già la povertà era tanta, e con il nuovo governo la povertà andava ad aumentare, quindi aumentavano i poveri e i ricchi erano sempre più ricchi. Durante quella manifestazione, lungo il tragitto, ci furono scontri, ci furono azioni contro i luoghi simbolo, insomma, del potere, banche, caserme, fino a che non si arrivò a Piazza San Giovanni, dove fu messa in pratica la trappola orchestrata, insomma, dal Ministero dell'Interno, dove tutti i manifestanti che riuscirono a entrare in piazza furono chiusi completamente. Ogni via di fuga era completamente sbarrata, quindi non c'era via di fuga, e lì iniziarono duri scontri, ricordando anche che il corteo fu diviso in due appositamente per non far arrivare tutta l'afflusso dei manifestanti in piazza, altrimenti sarebbero stati le forze dell'ordine in netta minoranza e non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto. In piazza ci sono stati duri scontri durati diverse ore, arresti immediati, compagni feriti al momento. Ricordo che uno tra gli imputati, poi prosciolto, ha perso un occhio a causa di un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. Un altro, sempre da un lacrimogeno, ha perso, non ricordo se una o due dita, sempre con i lanci ad altezza uomo. Un manifestante ha riportato delle fratture a una gamba, investito da una camionetta, no? I soliti caroselli che ormai siamo abituati a vedere durante certe manifestazioni. E niente, da lì poi ne è scaturita la violenta repressione nell'immediatezza e dal giorno seguente. Questo è un po' un quadro generale di quella giornata. Non ci sarebbe tanto da dire, ma so che anche lo spazio è poco, anche perché dopo ci sono anche altri interventi, perché parlare del 15 ottobre purtroppo significa avere a disposizione ore e ore e ore, perché non contestualizzarlo in pochi minuti è veramente difficile, anche perché poi subentra anche la rabbia ricordando questi fatti. Sì, tu parlavi degli scontri appunto in piazza, è abbastanza esemplificativa agli occhi di tutti l'immagine di quella camionetta in fiamme che brucia a Piazza San Giovanni con la scritta Carlo vive. E proprio da lì diciamo che gli sbirri, le procure, lo Stato ha deciso di prendersi la sua vendetta e insomma sono partiti vari processi per devastazione e saccheggio. Nel primo momento ci sono stati degli arresti, dimmi se sbaglio, correggimi, per resistenza aggravata, lesioni, anche magari qualcuno è stato processato per devastazione e saccheggio. Negli arresti, questo durante diciamo il primo filone processuale che riguarda gli arresti nell'immediato, nell'immediatezza. E poi ci sono stati altri due filoni processuali, se così vogliamo chiamarli, uno quello tra virgolette dei compagni teramani, tra cui c'eri anche tu, e poi c'è insomma quest'altro terzo dove ci sei anche tu ancora un'altra volta, ma senza entrare nello specifico. Questo è un po' il riassunto delle vicende repressive. Volevo chiederti se nel corso degli anni ci sono state delle mobilitazioni, c'è stato un sostegno al riguardo, e se ci potevi dire qualcosa insomma del presidio dell'altro giorno, come si è provato a organizzare, se ci sono poi mobilitazioni future, se ci si vuole muovere anche nel futuro per cercare di dare sostegno agli imputati e alle imputate che dovranno fare i conti con lo Stato a breve. Sì, allora mobilitazioni con cortei e cose del genere non ci sono state. Ci sono stati durante questi tre filoni processuali, c'è stata sempre una presenza solidale in tribunale, ci sono state delle giornate costruite come quella della 2 giorni dove il PM Minisci, parlo del terzo filone, doveva fare la requisitoria. Ci fu una 2 giorni dove lì ci fu una presenza solidale massiccia, poi un corteo spontaneo partito, però fu una cosa organizzata appositamente per quel giorno lì. A livello processuale, presenza solidale fissa e costante purtroppo dei soliti compagni, non c'è stata una vera e propria presenza solidale massiccia. Questo va ricordato perché erano sempre i soliti pochi compagni ad essere, e compagne ad essere presenti, ma anche in pochi la loro presenza era comunque fondamentale. Sono stati organizzati diversi benefit anche in Europa, attraverso la Cassa di Solidarietà La Lima, sempre costruita dai compagni e delle compagne di Roma. E attraverso questa cassa sono stati aiutati molti, diversi compagni sotto processo. Continua tuttora la solidarietà attraverso la Cassa La Lima, quindi chiunque, qualsiasi spazio sociale occupato, qualsiasi persona può organizzare tranquillamente un benefit, benefit per la Cassa di Solidarietà La Lima, contattare i compagni e le compagne di Roma e così ecco, contribuire quantomeno economicamente al sostegno degli imputati. Poi il presidio, per quanto riguarda il presidio che c'è stato il 15, è stato molto partecipato. È stato chiamato dai compagni e dalle compagne che hanno costituito la Cassa di Solidarietà La Lima. Ha visto grande partecipazione dal movimento di lotta per la casa, perché loro hanno all'interno del processo 3 imputati, però va ricordato una nota dolente che questi 3 compagni sono stati lasciati soli dal proprio movimento. Quindi anche qui l'atteggiamento di questo movimento lascia un po' a desiderare, anche perché ci sono delle dinamiche che hanno creato spaccature profonde e non so se mai risanabili tra i movimenti romani. Cioè, quindi è stato anche un processo, sotto il punto di vista politico, molto divisivo. Quindi anche sotto questo punto di vista rimane un processo difficile per quanto riguarda la difesa, ma difficile anche per quanto riguarda la solidarietà. Quindi non so come evolverà la situazione sul punto di vista solidale. C'è chi si chiama, c'è chi si sente tirato in causa e quindi obbligato ad esserci. Non è un bene, ma non è neanche un male. Quindi staremo a vedere. L'udienza del 15 è stata rinviata per la richiesta di legittimo impedimento di un avvocato della difesa. Sinceramente non sapevamo se venisse accolta o meno, perché c'erano diverse strade che poteva seguire la Corte, di far discutere il Procuratore Generale, e quindi il legittimo impedimento veniva accolto, ma solo per la posizione degli imputati dell'avvocato che non c'era. E quindi però si creava un vizio di forma. Perché l'avvocato non poteva assistere al dibattimento. Poteva farlo in un secondo momento, in quel secondo momento veniva data la sentenza. Per fortuna così non è stato, il processo è stato rinviato al 26 aprile, secondo me una data scelta apposta, quella del 26 aprile, non credo sia un caso. E comunque per il 26 aprile sicuramente i compagni e le compagne di Roma chiameranno un altro presidio, ma anche se non dovesse essere chiamato, il mio invito a tutte e tutte è quello di partecipare, perché insomma per alcuni di loro quasi certamente si apriranno le porte del carcere, perché noi sappiamo che quando un compagno o una compagna è sotto processo difficilmente può avere una assoluzione o una riduzione di pena, soprattutto con il reato di devastazione e saccheggio che ad oggi non è stato mai fatto cadere in questo processo. Quindi è una situazione molto, molto precaria per gli imputati. C'è da dire anche che chi non potesse raggiungere comunque sia il 26 aprile il presidio che si terrà fuori dal Tribunale della Cassazione, magari organizzare qualcosa nelle proprie città, perché uno capisce anche la distanza. Quindi magari ecco, messaggi, striscioni, attacchinaggio, volantinaggio, anche quello è un modo per non far sentire gli imputati soli. Le pene che adesso hanno sono pesanti, nessuno, se venissero confermate, per tutti si aprirebbero le porte del carcere, quindi è una situazione molto, molto difficile. Addirittura io durante il presidio ho parlato con una compagna imputata e mi ha detto: io sono tranquilla, in questi anni mi sono rafforzata, ho tenuto duro, ho metabolizzato il tutto, detto, sono pronta ad entrare in carcere, perché non si aspetta nulla dal tribunale. Certo che se cadesse la stazione di saccheggio è una vittoria, però al momento gli imputati sono così, sono pronti ad andare in carcere. In questi anni hanno fatto questo tipo di lavoro mentale, se così lo vogliamo chiamare. Va bene, sei stato abbastanza esaudiente, volevo solo chiederti giusto una cosa, più o meno quello che si prospetta per i compagni e le compagne, più o meno ce l'hai detto, più o meno le pene che si rischiano, da quanto vanno, cioè il massimo che verrà richiesto in Cassazione, allora, se mai dovesse venire confermata, logicamente escludendo sempre le persone che hanno già scontato un po', però la richiesta massima quale sarebbe? Volevo solo chiederti questa cosa qui. C'è da dire che in questo processo c'è un imputato che nulla a che fare con i movimenti che noi frequentiamo, non è un militante, tantomeno non è di sinistra. Ecco, lui ha la pena più alta, 6 anni e 11 mesi. Comunque ai compagni e alla compagna imputata le pene vanno, mi pare, da 4 anni e 6 fino ad arrivare ai 5 anni e 11, tutti con devastazione e saccheggio. Va bene, perfetto. Dai, ti ringraziamo. Rilanciamo allora l'appuntamento solidale fuori la Cassazione a Roma per il 26 aprile e ti mandiamo un abbraccione forte. Non possiamo che dirti resisti. Grazie a tutti e tutte. Ok, perfetto. Ci vediamo presto al campetto. va bene, ci vediamo presto a Giulianova. Perfetto. Un abbraccione, a presto. Un abbraccione, ciao. Ciao. Ok, ora ci sentiamo invece due pezzi di due gruppi italiani che fanno un hardcore un po' emo scrimato, i My Distance e i The Memory, uno dell'Aquila, i primi My Distance, e l'altro i The Memory. Ci sentiamo questi due pezzi affilati perché fanno parte di uno split che hanno fatto questi due gruppi nel 2015 che si chiama Bridges. Intanto ci sentiamo i My Distance con Cross the Bridge. Let me be the same again. Stay strong. Wanted money, less of stars. Playing rules of rebels, social distance. Keep spreading youth rebellion. Building over fascism on the spring. Bending to me. What is something that never ends? Still show life days. Rebellion anthems and crappy songs. Next. Torniamo in diretta con Mala Radio, sulle frequenze di Mala Radio. Questo è Cronache di Regime, sono le 19:31. Il pezzo che abbiamo sentito era Day the Memory, Destroying Mountains, Building Ruins, quindi distruggendo montagne e costruendo rovine. Ora, cercando di riprendere un po' il filone di quello che facevamo l'anno scorso con le dirette del giovedì, proviamo a parlare di sorveglianza. L'anno scorso avevamo sentito compagni e compagne di Genova riguardo le innumerevoli richieste di sorveglianza che arrivavano da quella procura, e allora ora andiamo a provare a sentire una compagna di Genova che ci darà appunto un po' di aggiornamenti riguardo tutte le richieste di sorveglianza che ci sono state e come si sta evolvendo la situazione repressiva da questo punto di vista a Genova. Proviamo a sentire la compagna. Ciao, pronto, ci senti? Sì, eccomi. Ciao, ciao, buonasera e benvenuta a Cronache di Regime. Ciao. Allora, appunto, come detto, volevamo provare a parlare un po' degli aggiornamenti delle sorveglianze a Genova, aggiornamenti riguardo a quello che abbiamo provato a fare noi l'anno scorso, sempre con Mala Radio, e quindi appunto ti volevamo chiedere come sta andando, qual è il mood della procura, questi 2,70 che poi non vanno a buon fine, partono le sorveglianze, la modalità repressiva che sta seguendo la procura genovese. Sì, allora, scusa, ma la voce va e viene, va bene, e quindi ti ho sentito fino a un certo punto, va bene, allora però ti posso comunque fare un quadro veloce, va bene, a Genova sono state richieste queste 3 sorveglianze speciali che poi sono state anche concesse a differenza di quelle di altre, sfortunatamente, e diciamo il meccanismo è stato diciamo abbastanza semplice, nel senso che questo PM diciamo è partito da una richiesta di 2,70 da applicare ad un gruppo di compagni anarchici genovesi che era veramente diciamo fondata assolutamente ovviamente sul nulla e quindi è decaduta, è stata archiviata non accontentandosi questo PM ha usato più o meno tutto il materiale che aveva era riuscito a mettere insieme, comprese vabbè una serie di cartacce varie e con questo materiale qua per 3 di questi compagni ha fatto la richiesta di sorveglianza speciale, quindi in qualche modo un processo che ha creato e ha alimentato sempre lui, perché comunque la richiesta di 2,70 era la sua, la richiesta di sorveglianza era la sua e la motivazione per cui ha richiesto la sorveglianza, quindi il motivo della pericolosità sociale per questi compagni era comunque fondamentalmente il fatto di essere anarchici e di aver ricevuto un'inchiesta per 2,70, quindi proprio un meccanismo autoalimentante praticamente. E niente, sono state fatte queste 3 richieste non contemporaneamente, sono state fatte progressivamente e tutte, diciamo in tutte, lui ha fatto comunque richieste molto alte, sparato proprio alto chiedendo il massimo 5 anni di sorveglianza in 2 casi e 2 anni e 4 anni, scusa, in un caso. E aveva richiesto le sorveglianze, diciamo, sulla base di motivazioni appunto di questo 2,70, quindi una sorveglianza non generica. E da momento che non c'erano proprio ovviamente i requisiti, le prerogative, ma non c'erano neanche quelle per la sorveglianza generica, comunque il Tribunale di Genova gli ha accordato le sorveglianze generiche, quindi diciamo la questione del 2,70 è stata in parte accantonata, anche se poi successivamente continua a riemergere in qualche modo, nel senso che soprattutto nel caso, in uno dei 3 casi quando la compagna che ha fatto la richiesta, diciamo la richiesta di appello e poi di Cassazione, si è vista rispuntare sempre i soliti discorsi fino alla Cassazione, che non ha smosso di un millimetro la situazione iniziale, quindi diciamo è rimasta la misura esattamente come era stata data in primo grado, malgrado i 2 gradi di giudizio successivi. E quindi insomma pare chiaro la modalità della procura, è chiara nel senso che è stata fortemente punitiva e penalizzante nei confronti di questi 3 compagni e non c'è stato verso di smuovere praticamente nulla. Ok, perfetto. Questo è il quadro abbastanza chiaro a livello repressivo che si è creato a Genova riguardo le sorveglianze. Ti volevo chiedere se ci sono state invece delle mobilitazioni al riguardo e come si è affrontata in città la questione sorveglianze. Sì, ci sono state delle mobilitazioni che, la situazione chiaramente quando è arrivata la prima richiesta era un po', diciamo, arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno, nel senso che nessuno se l'aspettava, era una cosa abbastanza fuori dall'idea probabilmente, a parte che è arrivata era nel novembre del 2020, quindi in una situazione di lockdown, quindi ancora più difficile insomma aggregarsi e creare delle situazioni di piazza. In più, diciamo, fin dalla prima si è visto, leggendo le carte della prima richiesta, che insomma la tipologia, pur non essendo diciamo fortemente molto motivata in realtà, però era molto sostenuta la quantità di cartaccia che avevano voluto accumulare tramite anche alcune inchieste dei ROS eccetera, e quindi si è subito capito che era di una certa rilevanza il problema e si è subito capito che non avrebbe coinvolto una persona sola, anche se diciamo la prima è stata chiesta appunto solo per una persona. Era novembre 2020, quindi poi alla fine ci sono state un paio di udienze, si è arrivati a dicembre, fine gennaio 2021, quindi in pieno lockdown. È stata un po' dura diciamo organizzare delle iniziative, però i compagni l'hanno fatto in città e insomma chiaramente non è stato facile, ecco. E la seconda richiesta è stata fatta poi verso un paio di mesi dopo, e quindi anche lì ancora c'è stata una mobilitazione, anzi a dicembre una mobilitazione, a gennaio un'altra, un presidio con corteino cittadino, diciamo, e anche in occasione della seconda, e in occasione della terza c'è stata una mobilitazione forse per certi versi un po' maggiore, nel senso che si è aggregata una quantità di gente maggiore anche proveniente da altre aree, perché nel momento in cui è arrivata anche la terza chiaramente si è visto che questa situazione poteva chiaramente dilagare e per la sua natura andare anche oltre, diciamo, l'ambito anarchico, e quindi c'è stata una mobilitazione più allargata che ha portato ad una manifestazione anche questa in città a settembre del 2021. E quindi sì, ci sono state mobilitazioni in città sicuramente, anzi, su questo argomento. E vabbè, niente, quindi questo sì, sicuramente c'è stata attenzione. Poi vabbè, purtroppo sono andate tutte nella stessa direzione negativa, però quello che ci possiamo fare. Vabbè. Ecco, una cosa che sì, una cosa che ti volevo dire, che secondo me è importante, è che secondo me questo tipo di misure qua stanno mostrando chiaramente come diciamo il potere nei nostri confronti si stia parecchio orientando nei confronti delle misure preventive della libertà, nel senso che, e questa è anche una conferma che è arrivata per esempio anche dal nostro avvocato nel momento in cui ci ha parlato di altre sue appunto esperienze di difesa, non solo nell'ambito diciamo politico, che un po' insomma tutto questo, il sistema penale si sta autoriformando molto lentamente e si sta orientando appunto molto di più sulle misure di controllo preventivo, perché risultano molto efficaci, a differenza, molto più efficaci diciamo delle misure normali derivanti dai processi, insomma, che comunque hanno un iter molto lungo e prevedono poi nel senso possono anche a volte anche nei nostri ambiti portano poi alla fine a molte assoluzioni e quindi sono poco funzionali all'ottica del potere. E invece in questo caso qua le misure preventive sono ottime perché per i loro interessi, perché come nel nostro caso per dimostrare, cioè non è necessario dimostrare la nostra pericolosità sociale, nel senso che basta un sospetto da parte di un PM e un po' un mix di prove raffazzonate, ma prove di qualche denuncia, qualche precedente penale anche molto banale, ed ecco che subito si configura la possibilità che tu sia pericoloso socialmente, quindi parte la misura preventiva. E oltretutto qua a Genova, diciamo che siamo proprio un laboratorio di applicazione, mi sembra abbastanza professionale, nel senso che oltre che le tre richieste di sorveglianza speciale è stata affibbiata, è stato richiesto anche un foglio di via per un compagno che pur abita a Genova, seppur poco oltre il comune genovese, per un compagno che era attivo nella lotta contro il Green Pass, nella lotta diciamo di piazza, e che quindi ha subito ricevuto il foglio di via da Genova. Quindi anche in questo caso qua misure preventive di allontanamento, di isolamento rispetto ai compagni e ai contesti di lotta. Perfetto, e volevo chiederti, giusto, praticamente hai detto quasi tutto, quindi facciamo una domanda finale. Non so se forse mi era arrivata una voce sbagliata, ma ci sono state altre richieste nel frattempo di sorveglianza speciale, oppure forse avevo sbagliato? E comunque se ci sono delle iniziative in programma anche per sostenere le persone, insomma, che si trovano afflitte al momento da questa misura, o come si pensa di muoversi in futuro e di riaffrontarle in caso se ne dovesse ricreare la situazione, se mai si è pensato a questo, oppure Oppure, una domanda avrà un esito negativo, insomma. Sì, allora, che io sappia al momento, diciamo, legate all'ambito che conosco io, non ce ne sono state altre. Certamente la sorveglianza, queste richieste di sorveglianza speciale non è che riguardano solamente il nostro ambito, anzi, sappiamo benissimo che in altri ambiti, magari diversi, per esempio, mi pare di ricordare che ne hanno prese, per esempio, ne sono state emanate nell'ambito delle lotte sulla logistica, se non mi sbaglio, non qua a Genova. E vabbè, poi questi sono dei provvedimenti classici anche che vengono dati nell'ambito, magari in altri ambiti anche, non è solo il nostro ambito, però diciamo per noi in particolare anarchici a Genova e legate a questa, diciamo, inchiesta iniziale che ha causato queste tre qua, per ora no, pare che si sia fermata qua, diciamo, l'onda di merda. E vedremo, nel senso, il nostro stalker Federico Manotti, il PM, comunque è sempre lì e si dà da fare, quindi non è che vedremo un po' cosa succederà in futuro. Per ora no, comunque. Un saluto se ci ascolta, non sappiamo se ha voglia di ascoltarci. Sì, un augurio anche, semmai. Rispetto ad altre iniziative riguardo, guarda, ultimamente in realtà no, nel senso che la situazione purtroppo per chi se l'è presa è abbastanza stabile, nel senso che per una delle tre si è arrivati già alla Cassazione senza smuovere di molto. Per un'altra, la compagna ha fatto richiesta di appello, ha fatto l'appello, ma anche lì c'è stata una mitigazione ma molto limitata. E quindi diciamo che, nel senso, purtroppo l'idea è quella che bisogna farsela e quindi niente, diciamo, i compagni se la vivono, purtroppo cercano di ritagliarsi i propri spazi, ovviamente, però da questo punto di vista è un po' statica la situazione, diciamo. E nel frattempo comunque a Genova però sono successe tante altre cose e quindi anche giustamente l'attenzione dei compagni si è anche un po', diciamo, allargata e quindi magari in questo momento qua sono altre le cose che interessano e tirano di più, giusto, da un lato anche giustamente. Quindi... E di questo ne parliamo anche dopo nell'altra intervista, sì, infatti, che rimaniamo sempre su Genova oggi. Sì, d'altronde non è che si può sempre stare lì a parlare di repressione, se no che palle, quindi... Va bene, dai, perfetto. Ti ringraziamo per questa intervista e niente, ti salutiamo. Grazie. E tanta forza e tanto calore e alla prossima. Grazie. Grazie a te. Okay. Ciao, a presto. Buona serata, ciao. Allora, come detto, dopo con la prossima intervista rimarremo sempre a Genova e parleremo dell'esperienza dello sfascio occupato e non solo, e anche a livello musicale rimaniamo a Genova. Ci sentiamo un gruppo che ormai è sciolto, punk hardcore dal 2010, Distemper Hardcore, questa è Labile. We'll be right back. Allora, 19.49, sempre cronache di regime, torniamo in diretta, questi erano i Distemper Hardcore con Labile. E come detto prima, abbiamo parlato di repressione a Genova, ma ora invece andiamo a parlare di qualcosa che è successo a Genova, che ha un po' smosso le acque in città. A inizio anno c'è stata una nuova occupazione, l'occupazione dello sfascio, e anche se è stata sgomberata, però si è creato un clima, non lo so, poi magari ce lo dirà meglio la compagna, comunque un clima abbastanza propositivo, e tutta una serie di iniziative che erano state organizzate sono state mantenute. Quindi ora proviamo a sentire questa compagna e ci facciamo un po' una chiacchierata sia sull'esperienza dello sfascio occupato, sul suo sgombero, ma anche sulla situazione universitaria che si era creata a Genova. Ciao, pronto, ci senti? Ciao, sì sì. Ciao, perfetto. Allora, come dicevamo, volevamo parlare un po' di questa scossone, di questo scossone che è avvenuto ad inizio anno a Genova, dell'occupazione dello sfascio, e quindi ti volevamo chiedere un po' in che contesto è nato, che situazione si è creata, quali sono state le motivazioni e la decisione, insomma, di prendere uno spazio a Genova occupato, anche perché era da un po' di anni, insomma, che non si provava a fare una cosa del genere nella città ligure. Pronto? Sì. Più o meno. Sì, non so cosa è successo, se eri tu o se era qualcun altro che ci sta ascoltando. No. Aspetta, prova a richiamarti, perché però forse è il tuo telefono, immagino. Ci sei? Aspetta. Bello della diretta, come al solito. Ora mi senti? Ora ti sento, sì. No, ecco, okay. È come se toccavi i pulsanti della tastiera e quindi si sentiva quel rumore. Ok, direi che a posto, non si sente più. Ok, ora no. Ok. Perfetto. No, sì, è stata sicuramente un'esperienza interessante, perché è nata un po' dall'unione di diverse realtà, gruppi, che proprio in vista del fatto che era un po' di anni che non si stava muovendo niente, hanno provato a creare qualcosa di un po' diverso, anche rispetto a quello che si diceva prima, il percorso di lotta contro la repressione, contro le sorveglianze soprattutto, ma anche in generale, più generale, contro la repressione di quest'estate, hanno portato poi a un po' all'incontro anche di realtà diverse che magari prima non dialogavano tanto, e quindi si è creato un po' un nuovo gruppo. Sicuramente un altro fatto scatenante è stato lo sgombero del TDN, che era un posto storico a Genova, e anche questo fatto qua, l'esigenza di ritagliarsi nuovi spazi nella situazione attuale, soprattutto norme Covid, ma anche in generale a Genova c'è stata una forte militarizzazione, centro storico invivibile, pattuglie di militari, polizia locale ovunque, proprio impossibilità di viversi la città, gli spazi, per cui questa esigenza di ritagliarsi uno spazio dove incontrarsi, dove portare delle iniziative, dei contenuti, dove fare rete, era molto sentito da tante realtà. E niente, si pensava a varie ipotesi, ci si è visti un po', e a gennaio si è deciso di occupare, col nuovo anno, un posto un po' fuori dal centro, ma con grandissima potenzialità, perché un giardino enorme, era un ex sfascia carrozza abbandonato, per cui c'era tutta una parte gigante proprio piena di rottami, che si stava già vaneggiando di fare un'area camper, accogliere la gente, e sotto tutto uno spazio gigante anche con possibilità di fare l'orto, vari laboratori, iniziative, per cui questo ha creato molto entusiasmo. Dopo già 2-3 giorni è venuta un sacco di gente anche che non era inizialmente legata al gruppo di partenza, perché proprio la volontà anche di avere uno spazio dove andare, ritagliarsi delle cose da fare, era forte. Per cui in realtà, per quanto breve, l'esperienza ha funzionato. C'è stato tanto giro di gente, una risposta piuttosto positiva da parte della città, per quanto il posto non fosse particolarmente centrale. Però è stata anche un po' la sua forza che ci fossero tantissimi lavori da fare, sia esterni che interni, per cui la gente si è data da fare. Sì, volevo chiederti appunto, dopo un paio di settimane, in realtà però questa esperienza è stata sgomberata, volevo chiederti se ci sono state mobilitazioni in città, e appunto anche col fatto che si sono intersecate varie situazioni di persone nel momento dell'occupazione e subito dopo, se anche durante queste mobilitazioni cioè, insomma, si è riuscito a fare un po' di massa e non rimanere i soliti. Allora, sicuramente già proprio dal momento dello sgombero, sì, perché quando hanno sgomberato comunque c'era da portare fuori tantissimo materiale e la mattina è stato difficile anche avvisare persone perché questo appunto è un posto un po' a fare in culo, e però c'è stata abbastanza mobilitazione nonostante la polizia avesse bloccato la strada. Alla fine poi si è riusciti a concordare che arrivassero le persone su anche proprio per portare via un sacco di roba, c'era di tutto, per cui gente coi furgoni, e c'è stata tanta mobilitazione, se no non sarebbe stato neanche possibile portarsi via la roba. E caso vuole che il giorno stesso dello sgombero c'era un altro presidio per l'occupazione universitaria che c'è stata invece la primavera scorsa, perché erano arrivati dei provvedimenti disciplinari, appunto, diciamo, i provvedimenti aziendali messi in atto dall'università, proprio di punire alcuni di cui avevano i nomi, ma proprio fatta a caso, per cui c'era stata tutta una mobilitazione per questa cosa qua. E ovviamente poi le due cose si sono unite, un po' perché molta gente frequentava entrambi gli spazi o comunque fa parte di entrambe le realtà, ma anche proprio perché alla fine succede questa cosa qua importante in città, ovviamente le persone confluiscono in entrambe le cose, per cui poi tutte le persone che erano su allo sfascio si sono spostate a quest'altro presidio e poi si è lanciato un altro incontro in un altro spazio, appunto per parlare dello sgombero. In realtà la cosa positiva è che si è riusciti a portare avanti un po' di iniziative anche senza avere più il posto, nel senso che ci sono state realtà molto solidali che hanno continuato ad ospitare gli eventi e a mantenere un calendario legato a quello spazio lì, per cui ancora adesso il gruppo è abbastanza attivo. Ok, perfetto. E mi dicevi appunto di questa situazione qui dell'università, noi ne avevamo parlato l'anno scorso, avevamo comunque letto un comunicato nel momento dell'occupazione dell'università, già che ci siamo così facciamo una panoramica insomma di tutto quello che è successo in presa bene a Genova l'anno scorso fino al momento dello sgombero e lo sfascio, risentiamo questi numeri qua, se ci vuoi dire due parole insomma sulla situazione che si era creata in università? Sì, a Genova non si trovava in università da un botto di anni. Ok, aspetta, se puoi riparlare perché si risente sempre quei tasti che premono. Ok, cioè non so se sono io, vabbè, comunque no, era una roba che non succedeva da un sacco di anni a Genova che si occupasse un'università. Per cui soprattutto in una situazione pandemica c'era ancora l'allerta arancione, quindi è stato un po' un azzardo, ma anche lì si è occupato un plesso molto grosso, sono entrati in pochissimi, era un collettivo molto piccolo e ha avuto grande successo, nel senso che ha radunato tanta gente. E anche lì è stato un modo anche per le altre realtà genovesi di rimettersi un po' in gioco, rincontrarsi e... anche perché erano tutti molto giovani, c'era proprio un collettivo neonato, tutti universitari, primi anni, e ovviamente non ci ha cagato nessuno, nel senso che era una cosa piuttosto grossa, ma cioè, sono usciti veramente pochissimi articoli. È stata occupata più di un mese, non c'è stata alcuna risposta da parte delle istituzioni universitarie riguardo alle rivendicazioni piuttosto importanti che erano state fatte, e proprio di denuncia dell'assetto emergenziale che però riproponeva dinamiche aziendali dell'università già in atto da secoli, i finanziamenti e tutte queste cose qua che non hanno minimamente preso in considerazione, salvo poi a dicembre, novembre appunto comparire questi provvedimenti disciplinari che sono una roba proprio interna all'università che non si è mai vista, tipo logica aziendale, punisco, ti faccio il richiamo, ti tolgo un po' di soldi, così nel caso dell'università puoi essere sospeso dagli esami, per un po' di tempo non puoi frequentare, e è stato fatto a singoli, presi a caso, per cui c'erano questi pseudo processi online, e uno alla volta, e appunto è stato fatto un comunicato contro questa cosa per denunciare il comportamento aziendalistico dell'università, e è stato fatto quel presidio lì che poi ha combaciato con lo sgombero dello sfascio. Quindi diciamo che un po' le situazioni si intersecano, però sicuramente quest'estate è stata un'estate interessante, sia per questa occupazione, sia per le proteste contro, cioè proteste, insomma, con le manifestazioni in occasione del ventennale del G8, e sicuramente hanno creato un po' una rete, l'intervenire di persone un po' nuove, così, e quindi sicuramente poi hanno contribuito anche all'occupazione dello sfascio, ecco. Ok, va benissimo, perfetto, dai, grazie. Penso che, vabbè, non so se vuoi aggiungere altro, ma... Ma mi pare direi che questo è il quadro, ora siamo un po' qua. Speriamo, so... speriamo che prima o poi possiamo venire a trovarvi a Genova in un altro spazio. Speriamo di sì, dai. Speriamo di sì e niente. Presto che tardi. E allora dai, ti salutiamo e ti auguriamo una buona serata. Anche a voi, grazie mille. Perfetto, grazie ciao, a te per serata. La disponibilità. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ok, abbiamo sentito la compagna di Genova, ora ci andiamo a sentire un pezzo, dopo non faremo un'altra intervista, stacchiamo un attimo con le interviste, ci sentiamo un pezzo di Ascal Fukushima, featuring DJ West e DJ T-Rob, Trecciare la Terra. Ci sentiamo questo pezzo perché dopo parleremo delle persone recluse che appunto vivono una condizione simile a chi rimane sospeso tra il cielo e la terra. Questo è Ascal Fukushima. Io non mi sento così vivo dentro, così bello e così in forma. Non ci riesco a starci dentro nel complesso e nella norma. Mi detesto e mi diverto a stare appresso alla mia ombra. Usa il cesso in mano, mezza bomba, l'odio non s'affronta. C'è tempo, corro verso il centro in uno squat di Londra. Un sargento stando attento ai Robocop di Londra. Puzzo lercio ed escremento al colon che mi scoppia. È tutto perso ma in compenso molotov in bocca. È buio pesto dove cresco, l'orologio che rintocca. L'ora adesso del compenso è da un pezzo che ci tocca. Col tuo sesso senza amplesso non ci scherzo, porca, ti penso, non vi cerco, do dentro con la roba. C'è lo stesso cielo terzo, io vi aspetto alla mia tomba. Dove ho messo il mio rispetto, il mio berretto e la mia fotta. Non mi arrendo, parlo a stento, sotto effetto, doppia goccia. La galassia capovolta è tutta l'ansia che la volta. Vita prende, toglie e dà, ma qui si sente ancora tutto il freddo che fa. Conviene stare a metà tra la terra e il cielo. Io rimango di qua, nella merda in pieno. Perché la vita prende, toglie e dà, ma qui si sente ancora tutto il freddo che fa. Conviene stare a metà tra la terra e il cielo. Io rimango di qua nella merda in pieno. Spengo le mie canne sulla carne come vecchi miti. Palle tra le gambe, zanne di elefante tra i canini. Penseremo sta adelante chi combatte tra i banditi. Versa sangue sulle spranghe, grida ma non mi uccidi. Chiromante tra le carte, getta in fiamme i miei destini. Pioggia grande da ogni parte, grandine di meteoriti. Sulle banche teste basse di ogni classe di partiti. Pare bianche mamme affrante, Dio comanda a manniti. Sull'Atlante vacillante, tutto cambia con la crisi. È l'aggravante al vigilante, uno bianca a omicidi. Il tuo contante è nauseante, il buco scava tra i concimi. Nelle stanze vicinanze, gruppo attacca i condomini. Quattro fanze sottostante, queste d'erba in comodini. Alienante, aria pesante, morte certa, pesticidi. Prendi l'arte, fanne parte, sopravvivi se sorridi. C'è chi piange, anche da grande il mondo li ha mangiati. Perché la vita prende, toglie e dà, ma qui si sente ancora tutto il freddo che fa. Conviene stare a metà, tra la terra e il cielo. Io rimango di qua nella merda in pieno. Perché la vita prende, toglie e dà, ma qui si sente ancora tutto il freddo che fa. Conviene stare a metà tra la terra e il cielo. Io rimango di qua nella merda in pieno. Dammi una birra e un... Dammi una birra e un paio di grida dentro un cranio. Te le faccio diventare un centinaio. Te le faccio diventare un centinaio. SBT DJ West is back. Ascal Fukushima DJ and DJ T-Rob. Perché la vita prende, toglie e dà, ma qui si sente ancora tutto il freddo che fa. Conviene stare a metà tra la terra e il cielo. Io rimango di qua nella merda in pieno. Perché la vita prende, toglie e dà, ma qui si sente ancora tutto il freddo che fa. Conviene stare a metà tra la terra e il cielo. Io rimango di qua nella merda in pieno.

e ci sentiamo Holiday, tratto dal nuovo CD Glow On. Allora, 20:17, questi erano i Turnstile con Holiday, sempre cronache di regime, e ora proviamo a chiamare una compagna per lanciare il corteo che ci sarà sabato prossimo a Bussarsizio contro il Green Pass e oltre. Proviamo a contattarla. Un attimo solo che proviamo a metterci in linea con la compagna. Ciao, pronto, ci senti? Ciao, pronto, sì, ti sento. Ciao, ciao, buonasera e benvenuta a Cronache di Regime. Buonasera a tutti e tutte. Okay. E niente, allora, non ti abbiamo introdotto troppo, abbiamo detto che comunque c'è un corteo a Bussarsizio sabato 26 e niente, quindi ti faccio una domanda, insomma, per introdurre anche più o meno l'argomento. Ti volevamo chiedere il contesto generale nel quale si crea più o meno l'idea di fare un corteo a Bussarsizio e cosa è successo nei mesi precedenti. So che c'è un'assemblea no Green Pass e soprattutto sapere di come questa assemblea stia lanciando un corteo così anche grosso in provincia, Bussarsizio. Ero un po' curioso e quindi ti faccio questa domanda qui. Ok, allora io farò, diciamo, una brevissima, risicatissima cronistoria di come si è formata e come si è strutturata l'assemblea di Bussarsizio, perché secondo me è una cosa indispensabile per capire per quale motivo sia stato chiamato questo corteo e quali ne siano le intenzioni. Allora, dunque appunto, l'assemblea di Bussarsizio si crea a luglio Successivamente a queste chiamate, che sono state fatte anche su Milano anonime, arrivano anche a Busto, per cui ci si trova in piazza senza idea esattamente di quale potesse essere la struttura, no? Per cui senza partiti, nessuna bandiera, nessun riferimento. L'unica cosa che accomunava le persone presenti era inizialmente una sfiducia verso le istituzioni, sicuramente tipo la rabbia dovuta anche a una situazione che per molti era scioccante, per cui appunto ci troviamo in piazza e per le prime settimane, due sabati di fila, facciamo dei cortei per Busto Arsizio composti da più o meno 200 persone, che comunque 200-300, comunque per Busto Arsizio sono numeri molto grossi. Quindi per cui decidiamo di voler proseguire nelle settimane seguenti e alla fine di una di queste due manifestazioni ci mettiamo in cerchio e facciamo vabbè, allora perché non ci becchiamo in settimana e non proviamo a organizzarci insieme per capire come proseguire la lotta? E così nasce l'assemblea di Busto Arsizio. Nasce l'assemblea di Busto Arsizio che all'inizio è molto difficile perché ovviamente raccoglie un sacco di anime, persone che arrivano da contesti diversi, anche diciamo con un retroterra culturale, anche politico differente. È molto difficile parlarsi, nel senso che sono momenti in cui ci si sfoga, si appunto tira fuori un po' quella che è la frustrazione del momento, anche un po' il disorientamento. Sembra che molti interventi siano più posti come delle domande, no? Per cui diciamo che di settimana in settimana questa assemblea che viene a crearsi, fatta sempre di numeri diversi, persone diverse, volti diversi, alla fine diventa una vera e propria assemblea, cioè iniziamo ad avere veramente un metodo anche comunicativo efficiente, si iniziano a contare sempre di più, cioè interventi che vadano verso delle proposte vere e proprie, no? Di metodo anche di come continuare a fare le manifestazioni, e pian piano col passare dei mesi ci si struttura sempre maggiormente. Ci sono dei momenti che secondo me sono un po' tipo chiave di quello che poi sono stati i passaggi, no? Che hanno fatto sì che si formasse una vera e propria assemblea organizzativa, tra cui sicuramente i fogli di via che sono stati dati nei primi mesi ai compagni e che sono stati un modo per poter pensare a come reagire, no? Anche a diciamo dei colpi da parte della polizia, perché in quel caso appunto sono stati dati i fogli di via, quindi si è ragionato anche un po' su quali potevano essere le misure, anche a Milano venivano dati l'ASPO, per cui alla fine è stata creata anche una cassa di solidarietà. Una cassa di solidarietà che poi è diventata anche la cassa vera e propria dell'assemblea, per cui è stata la cassa che è stata utilizzata per stampare i volantini, per portare avanti le iniziative. E niente, sono iniziative che si creano di settimana in settimana sulla base delle discussioni che avvengono in assemblea. Per cui, non so, per esempio, arriva una persona nuova con il proprio sentire e attorno a quel sentire si creano delle discussioni su mille temi diversi, perché poi ognuno lega la questione del Green Pass ai temi più disparati, no? Che possono essere quello della digitalizzazione, quello della sospensione sul lavoro. Cioè, questa è una cosa che ha fatto sì che l'assemblea di Busto Arsizio potesse diventare anche un momento di arricchimento, no? Cioè, discorsivo, teorico. E quindi, sulla base di queste discussioni, nasce poi anche il gruppo di studio, che è un vero e proprio gruppo di studio per far sì che le persone portino degli interventi, diciamo, tematiche come la scuola, quindi nasce anche il gruppo degli educatori, oppure appunto sulla questione sulla questione sanitaria e niente, è praticamente questa la struttura che abbiamo mantenuto finora e che ha fatto sì che durasse un po' questa esperienza. L'unico momento diciamo un po' di bassa che c'è stato è stato ovviamente dopo il divieto della Lamborghese di fare i cortei, che fino a quel momento era stata la pratica che era stata portata più frequente avanti. Quindi ci sono stati dei lunghi mesi in cui per lo più abbiamo fatto iniziative statiche in piazza. In realtà è stato anche un bello, cioè non so come dire, è stato anche un qualcosa che non avremmo potuto costruire se avessimo continuato a riproporre sempre la modalità corteo, perché molte persone si sono messe in gioco portando i propri metodi espressivi, quindi abbiamo fatto pezzetti teatrali, piuttosto che abbiamo invitato le ragazze che facevano circo, oppure per chiarirci anche le idee, per parlare anche della questione puramente vaccinale, abbiamo chiamato dei relatori. Quindi, insomma, sono stati anche mesi di approfondimento e di sperimentazione, e anche del conoscersi tra di noi e capire come potevamo proseguire insieme. E questa è l'assemblea di Busto Arsizio. Cioè, un'assemblea che si dà come base, diciamo, quella dell'orizzontalità, no? Del mutuo appoggio. E niente, è praticamente, voilà, arriviamo ad oggi, in un momento in cui forse si hanno anche poco le idee chiare, no? Visto che a Milano non c'è più niente, però Busto Arsizio è rimasta in piedi e quindi probabilmente ci siamo detti, proprio perché ci siamo organizzati in questo modo, abbiamo costruito una comunità, ci siamo conosciuti, abbiamo trovato un linguaggio comune, abbiamo costruito degli strumenti come appunto il mutualismo e la solidarietà, adesso stiamo lavorando anche dei metodi per aiutarci con i lavoratori sospesi, per dire. E quindi niente, cioè, diciamo che siamo in un momento in cui ci siamo detti, boh, siamo sopravvissuti, abbiamo una forza, come facciamo a esprimerla? E il corteo si colloca in questo momento in cui, diciamo, anche forse dopo tutti questi mesi un passettino potrebbe essere quello di unirci ad altri gruppi. Cioè di parlare anche di altre tematiche, di parlare anche di altre tematiche. Perché, no, infatti io ti volevo fare anche questa domanda, nel senso che la roba dei cortei no Green Pass è sempre stata caratterizzata più o meno dalla monotematica, nel senso è vero che c'erano varie declinazioni, vaccinazioni, Green Pass, eccetera, motivazioni sanitarie, però si era sempre abbastanza impostati su quello. Nel frattempo comunque poi lo Stato ha avanzato in altri modi la sua oppressione, non solo con il Green Pass, ma oggi la cosa più lampante ad esempio è il caro vita, cioè nel senso non è che ci servivano gli aumenti di gennaio per capire che comunque lo Stato ci costringe a pagare sempre più soldi, pagare l'affitto eccetera. Quindi ti volevo chiedere, questo allargamento, che secondo me è una cosa molto interessante, l'allargamento delle tematiche, com'è che siete arrivati, o comunque avete deciso proprio di chiamarlo oltre il Green Pass? Cioè, forse ti dico io un'opinione mia personale, finalmente per come la vedo io, vabbè, è soggettivo questo, e anche quella cosa che mi dicevi tu, scusa se ti ho interrotto, però ti volevo fare un po' sta domanda qua. No, ma in realtà, ecco appunto, come ho già detto prima, in realtà di volta in volta in assemblea sono sempre venute persone diverse e portavano con sé ovviamente dei sentieri differenti, e su questi sentieri differenti abbiamo sempre costruito dei discorsi che sono sempre andati inevitabilmente al di là del Green Pass, perché comunque ci sono persone che appunto hanno provato a portare avanti delle istanze sul posto di lavoro, piuttosto che persone che avevano una sensibilità più verso la critica alla medicina occidentale, piuttosto che persone che sentivano tantissimo, no? Cioè l'oppressione poi anche, cioè, dei sistemi di digitalizzazione, non vi si trovavano. Quindi, cioè, in realtà il momento dell'assemblea è sempre stato un momento di confronto, e attraverso l'assemblea si sono poi sempre portati argomenti in piazza. Tant'è che, come dicevo prima, sono stati creati dei veri e propri gruppi di studio in cui si scambiavano testi, si provavano a strutturare dei gruppi tematici, per poi in piazza effettivamente portare degli interventi diversi. Per cui quella che senti tu, no, come una monotematica, in realtà probabilmente è quello che risulta da fuori, ma per chi ha vissuto la realtà di Busto Arsizio è stata una cosa sempre presente. Tant'è che anche adesso, per dire, c'è stata la settimana che c'era stata la morte di Lorenzo, durante lo stage, per esempio, in piazza abbiamo portato tanto la tematica dello sfruttamento sul lavoro, della ricerca sfrenata del profitto da parte dello Stato, l'abbiamo legata a tantissimi argomenti diversi, siamo arrivati pure a parlare del Ponte Morandi, per dire, no? Perché comunque poi, cioè, ogni questione ovviamente è legata l'un l'altro, perché se ti immagini la società come una grande industria, no? Dove tutto è finalizzato al profitto, no? E anche il dispositivo Green Pass alla fine volge in quella direzione, o anche se fai una critica a quella che è attualmente la sanità pubblica, no? E quindi in verità, semplicemente, secondo me, il momento del corteo vuole essere una rampa di lancio per dare un esempio, no? Che sia appunto come metodo organizzativo, quello dell'orizzontalità, che è una cosa che abbiamo spinto tantissimo anche nell'assemblea preparatoria che abbiamo avuto con altri gruppi del Varesotto, perché comunque attorno a noi, cioè in questi mesi, si sono creati tanti vari gruppi che poi sono andati forse un po' a sgretolarsi col passare dei mesi, forse anche perché a Milano non c'è stato più nulla, e sicuramente, ma proprio sicuramente, Milano è sempre stato un riferimento, no? E cioè quella, non so come dire, lucina accesa, no? che rendeva sensato anche magari organizzarsi territorialmente per convergere. Tant'è che quando io andavo, per esempio, ai cortei a Milano, ho incontrato sempre tantissime persone di altri gruppi, no? Qui del Varesotto, o anche tra di noi, tantissime persone andavano una settimana a Milano, una settimana a Busto, una settimana a Milano, una settimana a Busto. Ecco, secondo me, una volta scemata a Milano, sono andata a sgretolarsi un po' di realtà, e quindi la nostra volontà è stata proprio quella di dire, boh, ma rilanciamo, no? Capiamo come, proviamo forse a organizzarsi, a pensare anche nuovi modi per stare in strada, perché anche a Busto comunque, da che ci sono state i divieti di manifestazione, per dire, ovviamente non abbiamo più fatto cortei, se non un giorno che era stato, se non sbaglio, il sabato seguente alla notizia che era uscita sull'obbligo vaccinale per gli over 50, ci siamo ritrovati in 300, allora abbiamo preso la strada, però comunque, cioè, non è più come qualche mese fa. E quindi dici, boh, forse è il momento che ci guardiamo in faccia, ci organizziamo, capiamo come, no? E quindi, non so come dire, cioè il corteo si pone proprio come proposta, no? Organizzativa. Non è tanto il corteo stesso, non so come dire, autocelebrativo, autoconclusivo. È stato uno strumento anche per incontrarsi, per parlare, per proporre. È un rilancio, insomma. È, sì, appunto, esatto, un rilancio di tutto il percorso che avete fatto. E anche appunto provare ad allargare e trovare altre modalità che non siano solo, sì, no, quelle, esatto, del corteo. Comunque è stato anche il primo momento in cui ci si è vista con tutti questi piccoli gruppi, no? Ci si è guardati in faccia, ci si è detti ok, boh, ma adesso ci siamo visti in faccia, proviamo nei prossimi mesi a capire come proseguire. E quindi magari inizia a fare anche dei ragionamenti su come poter portare avanti la lotta, anche se magari, boh, non so, forse l'abbiamo visto anche a Milano, forse dobbiamo trovare anche dei nuovi modi per stare in strada, no? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Va bene, niente, dai, allora quindi rilanciamo l'appuntamento del corteo sabato 26, se ci vuoi dire dove parte, l'ora, poi dopo lo diciamo nelle, esatto, iniziative, però se ci dici tu... Come? No, dico, lo diciamo anche dopo nel riepilogo delle iniziative, però se ce lo dici più tu è più interessante. Va bene, ok, allora si tratta del 26 febbraio, l'appuntamento è alle 15 in piazza Trento Trieste. Ok, perfetto. Non ho capito, a Busto Arsizio. Sì, esatto. Ok, perfetto, dai, grazie mille, sei stata gentilissima e disponibilissima, scusa per l'orario, spero di non averti fatto fare tardi, immagino che dovrai scappare una... Molto bene. Dovrai scappare una delle 7400 assemblee che fai appunto per organizzare questo corteo. E un abbraccione, ci sentiamo presto. Ciao ciao, grazie, okay. Abbracci, grazie, ciao. Per lo spazio. Ciao ciao ciao ciao. Abbiamo sentito la compagna appunto riguardo il corteo che ci sarà sabato a Busto Arsizio, lo rilanceremo dopo tra le iniziative. Dopo invece andremo a parlare di una situazione che c'è stata a Milano e più nello specifico degli sgomberi che hanno investito nelle ultime due settimane il quartiere di Corvetto. Ora ci sentiamo un pezzo di un gruppo che si chiama Comitato, una crew rap nata nel 93, il pezzo si chiama La casa è un diritto, ed è il primo disco della scena milanese, si chiama Immigrato, il loro CD, e il gruppo è formato da Zippo, DJ Enzo e DJ Sasha. Quindi ci sentiamo questo mega pezzo old schoolone dei Comitato, La casa è un diritto. Ho un breve annuncio da fare, Comitato. Non permettete nessuna provocazione. Il Comitato crolla la speranza nella realizzazione di l'altra faccia del mio paese. Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità. Il Comitato un criminale. Il Comitato un criminale. Il Comitato protestare. Il Comitato un criminale. Questa storia me l'ha raccontato un amico, l'ho riscritta in rima e ora ve la dico. Abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa un diritto, sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa. Disse in modo esemplare, andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo. Come? Sistemazione, a tutta la notte dovettero aspettare con rabbomigliazione, perché nessuno li voleva, lo spacco a loro non rendeva. Suo padre era stato un vecchio pensionato, ma aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente, giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto raccontando. Mi è bene qui, mi piace, sono ingiustizie, troppo si tace. Sì, diritto dell'agiato, perché è questa la realtà, che sia dannato chi sostiene questo tipo di società. Chi la voglia di cambiare non ce l'ha, chi dire non sa cosa serve. Non solo vaffanculo se nessuno, se qualcuno più ti dico pugno chiuso. Illuso, fuso, chiuso, se deluso, se confuso, non ancora concluso. Senti di nuovo, un dolce sì e un nuovo. Passarono 8 mesi, lui l'ha contati, gli ostacoli molti sono stati. Un giorno la casa fu segnata, una casa popolare del comune come viene chiamata. In un quartiere di gente semplice, ma anche di ladri drogati, lasciati in una sorta di eterni immarginati, quartiere di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici sono fieri che a casa ti scrivono, la casa ti abbia dato e ti chiedono il tuo voto, in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storica, lui per me rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano, cade l'incredibile, perciò va la repiano. Ci penso più, non riesco a stare zitto, soprattutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo. Allora, torniamo in diretta. Come detto, ora proviamo a parlare un po' di quello che è successo a Corvetto in questa settimana e proviamo a sentire una compagna che abita nel quartiere ed è un occupante. Ciao, ci senti? Sì. Ciao, ciao, buonasera e benvenuta a Cronache di Regime. Benvenuta, grazie. Saluto a tutte e tutti. Ok, niente, allora come avevamo detto volevamo parlare un po' di quello che era successo nelle ultime 2 settimane riguardo gli sgomberi a Milano e appunto nello specifico a Corvetto. Se ci volevi dare una panoramica generale, insomma, della situazione che c'è in quartiere riguardo gli sgomberi e se vuoi anche aggiungere 2 robe più in generale su Milano, se sai più o meno cosa sta succedendo in città. Sì, allora, vabbè, gli sgomberi in Corvetto diciamo che hanno più o meno susseguito il ritmo di quelli che si sono successi più o meno in tutti i quartieri popolari di Milano. In questo non c'è stato molto di diverso, lo sappiamo, quasi una volta a settimana, a volte una volta ogni 2, si presentano le camionette in quartiere e fanno quelli che loro definiscono sgomberi programmati, ossia sgomberi di famiglie che hanno occupato, di persone che hanno occupato, che sono stati segnalati ad Aler e che poi appunto nel momento in cui la forza pubblica è disponibile vengono diciamo sgomberati. Quello che diciamo che è successo in Corvetto nelle ultime settimane è stato il fatto che è stata sgomberata una casa di 2 compagne, una è la presente che vi parla, e quindi diciamo che c'è stata una reazione un po' più forte di risposta a questo sgombero. La casa da cui ci hanno mandato via era 2 anni che era occupata e appunto la sera è stato chiamato un piccolo corteino per le strade del quartiere che voleva spiegare quello che era successo, dare un po' una risposta. Già qui insomma si può dire che insomma la polizia è abituata anche magari ai soliti cortei che si fanno nei quartieri di risposta degli sgomberi, ci ha tenuto a evitare fortemente che noi uscissimo dal perimetro del quartiere dove abitiamo, sbarrando tutti gli accessi, facendo capire anche con un diciamo imbottigliamento finale dei manifestanti che non c'era verso insomma di uscire da quelle quattro vie. E, dopo qualche giorno è stata ripresa un'altra casa e per questo è stata chiamata una colazione antisgombero per la mattina dopo. E non si è presentato nessuna forza pubblica il giorno dopo, però appunto dopo tre giorni sono venuti di nuovo a sgomberarci. Il perché di questo accanimento può essere un motivo di ragionamento. Sicuramente sappiamo che chiamare anche pubblicamente delle cose, mostrare una lotta, mostrare una volontà di resistenza è una cosa che urta ulteriormente la questura, e quindi possiamo dire insomma che c'è questo anche sul piatto. Dopodiché quello che non si sa è se, e lo scopriremo sulla nostra pelle, è se sta avvenendo una sorta di momento di intolleranza da parte della questura di fronte alle occupazioni abitate dai compagni oppure no, perché chiaramente la seconda volta che sono tornati a sgomberare hanno sgomberato anche un'altra casa in via Panigarola di persone che abitavano lì da diverso tempo e poi appunto hanno risgomberato noi, ed è sicuramente una cosa curiosa visto che eravamo abituati diciamo a altri tipi di procedure, quindi chiaramente il loro è stato un segnale forte da quel punto di vista. Sì, questo lo scopriremo, se intervengo, sì, dico sì. Lo scopriremo col tempo, se insomma c'è un qualche accanimento nei confronti delle compagne e delle compagne, e se magari soprattutto questa cosa è legata nello specifico a dei percorsi che si seguono in città, ma questo non c'è dato né dirlo né pensarlo, ce ne faremo certo un'idea migliore magari col tempo. Sicuramente ci sono delle cose che sono sul piatto, Corvetto comunque è molto vicina a una zona che sta subendo importanti processi di riqualificazione, Corvetto stessa ne è investita proprio nel suo cuore, anche proprio delle vie che lo caratterizzano, e quindi a partire sicuramente dal fatto che le Olimpiadi arriveranno in città nel 2026, per cui lo scalo di Porta Robana avrà questa profonda trasformazione, ci sarà la costruzione appunto del villaggio olimpico, e comunque Porta Romana è decisamente molto vicino alle vie di Corvetto. E, oltre a questo sappiamo appunto che la presenza di Fondazione Prada e tutta la costruzione di uffici direzionali da parte di aziende che si occupano di riqualificazione in città fa anche, e soprattutto questo lo dico perché è un fatto secondo me interessante, il fatto che si voglia tentare di cambiare proprio il nome alla zona che sta a sud di Prada definendola sopra, proprio a dire sud di Prada, un po' quello che è stato fatto con la zona di via Padova, con Nolo, Nord Loreto, esatto, ci fa proprio capire che insomma ci sono degli interessi non solo da parte del capitalismo, cioè del capitale, dei grossi investimenti che stanno girando in città e stanno arrivando in città sicuramente prima su tutti quelli delle Olimpiadi, ma anche una volontà comunale diciamo, e questo ce lo dice invece lo spostamento di un grosso degli uffici di una grossa parte degli uffici comunali in via Sile, in Corvetto, con l'apertura anche lì del diciamo degli uffici all'urbanistica, un grosso edificio che è spuntato nel centro del quartiere e che piuttosto suntuoso anche, devo dire, e che sicuramente non sono uffici diciamo da sportello, ecco, sono uffici più direzionali, più tecnici, e roba di questo tipo, e insomma questo ci fa capire che c'è un interesse anche da parte dell'amministrazione comunale sul quartiere o su il territorio che dove c'è Corvetto, che parte anche poi dalla zona di Porta Romana. Quindi questi sono anche... fatti che sappiamo. Sì, scusami se mi inserisco sempre, no, per integrare anche il discorso, certo. Il fatto della riqualificazione dello scalo di Porta Romana, tutti gli, certo, interessi che ci sono dietro, tutti i palazzi che verranno costruiti in ottica delle Olimpiadi e con tutte le cose che hai detto tu, ecco, il quadro del perché gli occupanti, le occupanti e i compagni e le compagne sono abbastanza indesiderati e indesiderate in questo, esatto, momento in quella zona. Sappiamo cosa sono i processi di riqualificazione, sicuramente c'è tutta una fetta di indesiderati che subiranno delle batoste repressive, ma quando arrivano questi grossi eventi, questi sono i meccanismi che si mettono in campo, per cui ripulire la fascia di alcune zone per permettere appunto agli investimenti di continuare ad arrivare, insomma, ad alimentare un circuito economico che chiaramente esclude le persone che abitano anche quel quartiere. Io ci tengo anche a fare questo discorso perché poi spesso si anima all'interno dei quartieri popolari dove ci sono tante case occupate la diatriba tra occupanti e invece assegnatari, ecco. Quando ci sono processi di questo tipo, diciamo che si è tutti un po' sulla stessa barca, nel senso che se una zona prende di interesse, aumenta di interesse, ne fanno poi le spese tutti gli abitanti. Adesso poi farò un esempio banale, però poi se toccherà farlo veramente banale non sarà. Nelle zone, nelle vie di Corvetto stanno cominciando ad apparire le strisce blu ed è una zona prettamente, e non sono previste delle strisce per residenti. Per cui, non so come dire, quando c'è una valorizzazione di uno spazio, poi anche le persone che ci abitano subiscono, non so, l'innalzamento dei prezzi, l'apertura di nuovi locali che non sono alla portata dei loro portafogli, e poi fino a che gli ultimi degli ultimi, la cacciata, l'espulsione, gli sgomberi, eccetera. Perfetto, guarda, hai fatto un quadro alquanto completo. Però io volevo chiederti se con questi sgomberi, con questi tentativi di mobilitazione o comunque di farsi vedere un po' in strada, chiamare delle colazioni antisgomberi, eccetera, si sta provando a ricreare un po' un legame con gli altri occupanti e le altre occupanti che non siano compagni e compagne. Perché, questa poi è una visione mia generale, comunque anche l'anno scorso che vari quartieri, ma tra cui anche Corvetto, tra cui Ticinese, in particolar modo la Barona, la risposta è stata un po' spenta, un po' scarna, come se ci fosse disillusione tra le persone occupanti all'interno dei quartieri, che non si può fare nulla riguardo lo sgombero, quindi non ci sono mai stati veri e propri momenti dove... c'era di resistenza, quartiere, ma oltre che di resistenza, proprio dove c'era una presenza solidale del quartiere. Quindi ti volevo chiedere se magari con queste robe qui, cioè, tu hai percepito che si stanno ricreando dei legami o c'è comunque un buon margine per farlo, se comunque continua ad esserci questa visione che ho io. Questa, non lo so, una domanda e ti faccio un po' soggettiva. Sicuramente, cioè, rimane sempre un po' il dire speriamo non tocchi a me, ecco. Poi appunto ogni realtà di compagni e compagna ha le sue reti di relazione nei quartieri, chi più chi meno, in questi momenti di solito di emergenza ci si riattiva tutti un po'. Sarebbe sicuramente auspicabile una reazione un pochino più di massa, perché poi sappiamo che oggi prendono me, domani prendono te. Per tanti, quello che ho percepito un po' io, c'è sempre l'illusione che non sia il proprio turno, cioè ma siano sgomberato lui perché spacciava, ma siano sgomberato lui perché era un ragazzo solo, ma sì, lui faceva casino, io ho i figli, non verranno a buttare fuori di casa me. Purtroppo queste sono sensazioni che ancora si hanno. Io ci tengo a dire che Haller non guarda in faccia a nessuno. Un'altra grande credenza è quella che se dentro una casa appena occupata ci si trova donna con bambino, allora l'Haller indietreggia e ti lascia dentro. Queste noi sappiamo, perché li abbiamo visti buttare fuori di casa donne, minori, senza colpo ferire, per cui insomma anche ricostruire una conoscenza di come funzionano le cose dovrebbe riuscire poi a far vedere meglio anche quello che sta accadendo. Purtroppo poi appunto ognuno nei suoi quartieri ha le sue relazioni, noi sicuramente le relazioni con le persone che conosciamo sul tema della casa, insomma, continueremo ad animarle, a farci forza a vicenda in questa idea un po' che essendo in tanti ad occupare, se ci si dà una, diciamo, una mano, ecco, il problema diventa un po' più piccolo, se è condiviso. Io infatti non ho ancora una casa, però non ho mai dormito una giornata fuori, e, cioè, si è dimostrata anche molta solidarietà da parte di tanta gente che mi ha detto c'è disponibilità, e questo è anche un po' secondo me la nostra forza, di riconoscerci un po' come persone che hanno lo stesso problema e che dovrebbero anche un po' lottare spalla a spalla per difenderselo. Poi appunto non è tanto il momento storico in cui questo avviene, le persone sono per lo più spaventate, sono per lo più affaticate da comunque cioè una vita che si fa sempre più complicata, con gli aumenti dei prezzi, col lavoro che manca, con la crisi legata al Covid che si aggiunge alla crisi prima. Diciamo che la soluzione ognuno per sé è, per molti risulta ancora la migliore. Eh sì, purtroppo all'oggi ancora è così. Speriamo che queste cose possano cambiare nel corso del tempo, e anche con le lotte e l'opposizione, che non parta solo dai compagni e delle compagne, che sennò facciamo una finaccia. E mi raccomando, cerca di dormire in casa in affitto in questi giorni qua, perché sennò è un disastro. Devi farmi 3 sgomberi in 2 settimane, cioè, per un bel record. Sarebbe un bel record. Va bene, dai, ti ringraziamo della disponibilità, ti scusiamo se ti abbiamo chiamato tardi, ma dobbiamo mandare assolutamente un pezzo dei Subdisorder, che come so tu il punk hardcore è proprio il tuo genere preferito, non vedi l'ora di sentirti questa canzone e dobbiamo chiamarli perché dobbiamo intervistarli. Va bene, dai, grazie mille e buona serata. A presto. Ciao, allora, grazie. Ciao a tutte e tutti. Ciao. E come detto, siamo un po' in ritardo sulla scaletta di marcia, sono le 20:51, ci sentiamo Oltre i confini dei Subdisorder, che è il primo pezzo del nuovo loro CD, Senza amor non vale nulla, e dopo ci facciamo una chiacchierata appunto con questi simpatici ragazzuoli e ragazzuole che vengono dalla Ionico Hardcore Scene. Oltre i confini, Subdisorder. Allora, ciao, ci sentite? Siamo in diretta con i Subdisorder. Ci siete?

Ska. Lo so, tu sei anglofono, sì, sì. Africano, amico. Scam sembra una truppa. Non capire tu lingua. Sembra una truppa, cioè distruggi la bassa. Distruggi la bassa, sì, quest'anno. Quindi ci sono un po' di date anche in programma. Va bene, dai ragazzi, grazie mille per la disponibilità e scusate se mi si è allungato un pochino, ma con le interviste prima si è andati un po' lunghi. Niente, prima ci siamo sentiti oltre i confini, ora ci sentiamo Senza Amor Non Vale Nulla e poi la tipica cover che fate voi questi anni di Kino. Grazie ragazzi e ci sentiamo presto. E a chi ascolta, se vi piacciono queste canzoni, compratevelo il CD su Disorder, mi raccomando. Dai, buona raga. Anche se è romantico, compratelo. Ciao ragazzi, grazie. Grazie ciao. Mille, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Suona dentro di me e non c'è niente che possa sperare, in questa vita non c'è niente da fare, tanto è tempo contro vento se ne va, senza amor non vale nulla. No. E se ci ripenso, piango combattendo, scrivo pagine su pagine solo per cavarmi età. Senza età, tanto tutto poi ritorna, senza amor non vale nulla, ti aspetterò se ci sarai, senza amor non vale nulla, nulla è tutto quel che ho. Potevo fare tutto, dovevo fare tutto e non ho fatto un cazzo. Fermo lì ad aspettare che qualcosa accadesse, ma sapevo anche il suo avvincente finale, quello di una storia che ci appassiona, che ci rende liberi dalle colline fin per mari aperti, lì dove volano le aquile, dove osa il nostro cuore superbo, pieno di insidie, e non importa quanto ancora devo aspettare, sarò qui per abbattere le barriere che ci dividono, che ci dividono. Senza amor non vale nulla, non ci sarò se ci sarai. Senza amor non vale nulla, nulla è tutto quel che ho. ho dentro fosse un'altra faccia. Ho più cicatrici di prima, sorrido un po' meno, forse penso di più, di più. Non mi chiedere se ho vinto, se ho perso. Vai. Allora, come al solito, a fine puntata, sulle note di Gloria Gaynor e Will Survive, proviamo a dire tutte le iniziative che ci saranno a Milano, o almeno quelle che siamo riusciti a reperire o ci sono giunte, e quindi proveremo anche questa settimana a provare a sopravvivere tra iniziative e cose che accadranno all'improvviso, speriamo di no, come gli sgomberi che ci sono stati settimana scorsa in Corvetto. Allora, iniziamo subito con un'iniziativa che ci è stata segnalata da un ascoltatore, che si terrà mercoledì 23 in via Mario Pichi 1 presso la sede del Partito Comunista dei Lavoratori e PCL Milano e Partito Comunista Lavoratore Milano. L'argomentazione è Kazakistan e Ucraina nella contesa tra imperialismi. I venti di guerra che soffiano nelle repubbliche dell'ex Unione Sovietica rendono necessaria una discussione, senza cadere in tentazioni di sostegno verso l'uno o l'altro campo imperialista. Ne parleremo mercoledì 23 febbraio dalle ore 18.30 presso la nostra sede di via Mario Pichi 1. Poi andiamo a giovedì, invece giovedì 24 febbraio, presso il Boccaccio ci sarà l'iniziativa che rientra all'interno di quella serie di iniziative chiamate Labyrinthus, quindi appunto Labyrinthus 2.0, forme di resistenza nello spazio digitale. L'iniziativa in questione si chiamerà Indiane e Autistici, autogestione e autotutela nella rete dalle ore 21, presentazione di Millennium Bug, una storia corale di Indie Media Italia. A seguire presentazione del progetto Autistici Inventati, Don't Hate the Media, Become the Media, presso il Faboccaccio 003, via Timavo 12 a Monza. Il 25, invece venerdì 25, ci saranno varie iniziative. Intanto ci sarà una cena benefit in Guaiati con la legge presso il Cuore in Gola dalle 20, invece in Villa Vegan occupata alle 20.30 ci sarà la proiezione di IFA Three Falls, una storia dell'Art Liberation Front, cura di Marshall Curry, una riflessione su azione diretta, ecologismo e attivismo attraverso la storia dell'operazione Backfire, un'indagine dell'FBI culminata con l'arresto di 14 persone con l'accusa di ecoterrorismo. La proiezione del documentario si terrà al chiuso, quindi anche in caso di pioggia l'evento verrà fatto uguale. E quindi rilanciamo questo appuntamento in Villa Vegan occupata, via Litta Modignani 66 a Milano, il 25 febbraio alle 8.30. Il giorno dopo, come già detto, ne abbiamo parlato ampiamente con la compagna durante l'intervista, ci si trova a Busto Arsizio per chi vuole, per il corteo contro il Green Pass e oltre. Sfratti, carovita, cure negate, licenziamenti, sfruttamento, digitalizzazione, controllo sociale. Alla loro ripartenza opponiamo lotta popolare e solidarietà, rovesciamo il mondo che ci vogliono imporre. Quindi sabato 26 febbraio, concentramento alle ore 15 in piazza Trento e Trieste a Busto Arsizio. Sempre il 26 febbraio ci sarà un'altra iniziativa presso Revdar, lo spazio in via Digione 7 che tra l'altro ospita la diretta della radio. Ci sarà Processiamo il sionismo dalle ore 16.30, presentazione del dossier sul processo contro gli antisionisti a Milano. Alle 17.30 dibattito sulla situazione in Palestina e sulla solidarietà alla causa del popolo palestinese. Ci si collegherà con un compagno palestinese dai campi profughi del sud Libano e verranno proiettati saluti scusate, verranno proiettati i saluti dei compagni del Partito Comunista Libanese e dell'ufficio stampa del FPLP di Gaza, Fronte Popolare di Liberazione. Ok, forse questo non lo so, quindi diciamo solo FPLP di Gaza. E alle 7:30 ci sarà l'aperitivo di finanziamento del centro di documentazione. E appunto il centro di documentazione antiimperialista Olga Benario, che si trova sempre presso l'associazione Revdar. Quindi sabato 26 dalle 4:30 in poi ci sarà questa iniziativa antisionista. Sempre sabato 26 invece dalle 3 in poi ci sarà la terza iniziativa riguardante le proiezioni del Sei Nazioni itinerante a Milano, organizzato da Rugby Sportivo. Questa volta ci si troverà al T28 in via dei Transiti, sempre saranno due le partite, alle 15:15 Scozia-Francia, alle 17:45 Inghilterra-Galles. Tra le due partite ci saranno due parole sul rugby dal basso. E ricordiamo sempre che le birre alla spina e il terzo tempo con cibarie varie saranno benefit per i prigionieri incarcerati, incarcerate, recluse e recluse. Andiamo a domenica 27, anche qui ci saranno un po' di iniziative. Partiamo con l'iniziativa che si terrà in casa Crescenzago in via Adriano 2, 27 febbraio dalle ore 16, si chiama Occhi sulla città e ne discutiamo a partire da interventi di approfondimento sulla questione urbana. Ogni zona può essere messa a valore, questo è quello che dice Peppe Sala. Come si misura il valore di una porzione della città? Due anni di pandemia hanno portato alla luce le dinamiche di governo della vita pubblica, gestione autoritaria e discriminatoria, sgombri e repressione, digitalizzazione e controllo, gentrificazione incalzante, metropoli infinita. Il processo Giambellino volge al termine e tocca da vicino tutte le vite che non si adattano ai ritmi di trasformazione della città. Proponiamo un confronto in tre atti per allargare lo sguardo alle trasformazioni urbane, i quartieri che ne vengono travolti, i meccanismi che le regolano, i movimenti che vi si oppongono. Quindi domenica 27 alle ore 16 il primo appuntamento di Occhi sulla città presso casa Crescenzago in via Adriano 2. Il 27 febbraio invece all'Imbiate ci sarà un'iniziativa organizzata dagli amici e dalle amiche e dai ragazzi ultras del Dal Pozzo. Gucci è sempre con noi presso il campo sportivo di via Corelli all'Imbiate, Monza Brianza. All'1:30 spillatrici accese per scaldare cuori, fegati, ma soprattutto la voce. Alle 2:30 spalti bollenti, mentre la squadra si riscalda, la curva si prepara al derby Dal Pozzo Riggio. E poi alle 5 aperitivo crasto con birrette, cibo, musica, un altro momento da vivere a modo nostro per mantenere la rotta prima di tentare l'assalto al cielo con Guccio nel cuore. E poi volevamo rilanciare un altro appuntamento che è fuori regione, però ci hanno chiesto insomma di ricordarlo. Il 27 febbraio 2022 alle ore 15 in piazza Statuto a Torino ci sarà il concentramento del corteo contro la repressione, contro la sorveglianza speciale, contro la carcerazione preventiva, per chiedere la libertà per gli arrestati di Barcellona. Ora leggiamo anche la chiamata del corteo e il comunicato. A volte si ha l'impressione di vivere momenti importanti che avranno un impatto sulle nostre vite e sul presente, ai quali si vuole essere partecipi. In Spagna, nel febbraio 2021, l'aria che si respira è probabilmente questa. Il governo fa arrestare il rapper Pablo Hasél per alcune canzoni che ricordano alla popolazione spagnola di cosa si macchiò la stirpe borbonica, una monarchia antica che durante il fascismo spagnolo si girò dall'altra parte, lasciando spazio alle violenze del regime franchista. Nelle grandi città migliaia di persone scendono in piazza ogni sera per la sua liberazione in modo sempre più determinato e conflittuale. Dopo 2 settimane di contestazioni, l'ordine di una società istituzionale è in crisi. Lo Stato ha bisogno di ripristinarlo. Il 27 febbraio vengono arrestate 8 persone a Barcellona per l'incendio di una camionetta durante uno dei tantissimi episodi di scontro con la polizia. Il giorno dopo tutti i notiziari ne parlano in modo sensazionalistico, come l'arresto definitivo dei pericolosi terroristi della rivolta, la maggior parte straniera. Schiacciati dalla macchina tritacarne dei media, i cortei diminuiscono e gli scontri si calmano. Alcuni degli arrestati sono di Torino, nostri compagni e nostre compagne, non sono né eroi né vittime, erano in piazza come avremmo fatto anche noi e come hanno fatto migliaia di altre persone. Un anno dall'arresto ed ancora 4 di loro si trovano in carcere in attesa di processo, con accuse inconsistenti. quelle più gravi e mediaticamente rilevanti, sono cadute nel giro di poco tempo. Oltre al danno la beffa, uscire pagando una cauzione. 40.000 euro fino a qualche mese fa, scesa ora a 15.000. La libertà può essere comprata, ma evidentemente non è alla portata di tutti. Non vogliamo solo chiedere la loro scarcerazione, ma, partendo da questo episodio, concentrare l'attenzione sull'utilizzo massiccio della repressione preventiva attuata in Spagna come in Italia. È ormai prassi dello Stato usare la carcerazione preventiva, almeno in due casi. L'ordine sociale è in crisi ed è necessaria una grande operazione mediatica per individuare i presunti colpevoli, scaricare su di loro tutta la responsabilità come monito e minaccia per gli altri, stroncare collettivi, gruppi o lotte con accuse molto gravi. Nella maggior parte dei casi le accuse poi si rivelano infondate, ma intanto l'obiettivo repressivo è raggiunto. L'altra arma repressiva sempre più utilizzata dallo Stato è la sorveglianza speciale. In questo caso non è nemmeno necessario un reato ipotetico, è sufficiente identificare le persone come soggetti pericolosi per isolarle. Le misure preventive non riguardano solo chi è colpito direttamente, sono il mezzo più usato negli ultimi anni per contrastare chiunque si oppone alle oppressioni quotidiane. Di fronte alla violenza della repressione non possiamo più stare a guardare. Per questo scenderemo in corteo il 27 febbraio alle ore 15 in piazza Statuto a Torino. Ci vediamo in piazza. Assemblea delle realtà torinesi verso il corteo del 27 febbraio. Bene, abbiamo detto più o meno tutte le iniziative che ci sono giunte, quindi rilanciamo anche questo appuntamento di Torino il 27 alle ore 15 in piazza Castello. Ora noi vi lasciamo, prima ci sentiamo lo spottino del corteo di Torino e poi ci sentiamo un pezzo rap di Kenzie con la produzione di DJ West che si chiama Pantarei. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Cronache di Regime, lunedì prossimo, sempre alle ore 19, sempre sul link in streaming che potete trovare sul sito di Mala Radio Milano, quando e dove ascoltarci. Buona serata a tutte e tutti e buon ascolto di Kenzie. Guardami in faccia, poi dimmi chi vedi. Se quello bravo, quello stronzo, quello mezzo pazzo. La vita è dura da affrontare, non credi? Io ogni volta che sgambetta faccio un altro passo falso. I miei mi vorrebbero sistemato. Glielo devo per quello che mi hanno insegnato. A non parlare con chi non ti ha mai ascoltato. Infatti amo l'aria che respiro e odio sprecare fiato. Non puoi fermare il mondo con le mani, ma puoi darmele per costruirci un secondo domani. Che la cima dista ancora troppi piani, non riesco nemmeno a vedere la fine per quanto siamo lontani. No, zero catene, no, zero dettami, la vita non te la gusti se perdi i particolari. Rispetto, amicizia lunga e patti chiari, se l'hai perso e vuoi riprenderlo ti aspetto sul tatami. Ma quanto tempo è passato, ma quanto sono cambiato, quante persone ho incontrato, ma quanto sangue ho versato. Non ti prometto l'oro perché però ti mentirei. Non voglio essere come loro, me ne pentirei. Non sono io che parlo e la mia vita canta lei. Mentre tutto scorre, Pantarei. Canta la lancetta ogni secondo, prova ad afferrarlo. Ciò che mi aspetta in futuro io non so come affrontarlo. Riesco a malapena a darti retta mentre sto affogando. Quando sbaglio il tempo perso, ho fretta di recuperarlo. Indietro non si torna, di notte nessun dorma. Perso nei pensieri a far progetti, a dargli forma. A spremere il destino e bere il succo dalla polpa. Per scoprire che è troppo amaro e non so mai di chi è la colpa. Forse non è vero, o forse è fantasia. O forse non riesco a ammettere che è la mia. La sfida più grande è sempre quella con se stessi. Quando fuori appari integro ma dentro stai cadendo a pezzi. Tra chi non mi ha capito, tra chi ho dimenticato, tra chi ci sta da sempre, tra chi non c'è mai stato. Fai botte col destino se non ti senti appagato. Quando punti al primo posto e neanche sei qualificato. Ma quanto tempo è passato, ma quanto sono cambiato, quante persone ho incontrato, ma quanto sangue ho versato. Non ti prometto l'oro perché però ti mentirei. Non voglio essere come loro, me ne pentirei. Non sono io che parlo e la mia vita canta lei. Mentre tutto scorre, Pantarei. Tra chi non mi ha capito, tra chi ho dimenticato, tra chi ci sta da sempre, tra chi non c'è mai stato. Fai botte col destino se non ti senti appagato. Quando punti al primo posto e neanche sei qualificato. Ma quanto tempo è passato, ma quanto sono cambiato, quante persone ho incontrato, ma quanto sangue ho versato.